Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartone animati. Non vedrò gli argini, le dighe. Non vedrò le sponde divelte. Non vedrò quello che non c'è mai stato. Non vedrò la corsa delle autopompe, le idrovore al lavoro. Non sentirò l'ansimare dei gruppi elettrogeni, il folle dispiegarsi dei soccorsi, il rosso e il nero dei pompieri. Non vedrò l'America in catena umana svuotare a secchi questo fiume nero. Scorrono immagini poche di persone avvinte ai tetti come foche ferite sugli scogli, gli stessi occhi spalancati. Lo sciabordio di gommoni senza carburante, privo del ritmo dei motori, è una canzone senza battito apparente, stessa gente da niente. Al largo delle coste ricche galleggia la Lampedusa della nostra mattanza quotidiana. Le streghe di mare divorano il pasto in silenzio, con leggera nausea, ora che la minestra è sempre quella. Da giorni gli stessi naufraghi affamati all'ora di pranzo sugli schermi in pasto ai commensali, occhi vetrosi, appannati, di pesce andato a male, da troppi giorni sui banchi del mercato, pesce guastato, morto, avvelenato, minestra allungata, acqua sporca, attossicata di noia, di lavata. Canili, naufragi, lazzaretti, campi profughi, ricoveri di vecchi, hanno gli stessi occhi annegati. È una specie di materico addensarsi del silenzio, come tamburo marcescente, legno gonfio d'acqua che non suona, cemento disarmato, ferro arrugginito nella foresta dei crolli. L'arca è sfasciata. Ma non vedrò galleggiare a due i cavalli, le mucche, i vitelli delle alluvioni bianche. Forse non ci sono abbastanza cavalli neri, non ci sono mucche nere a sufficienza. Al posto della colomba, il corvo forse sfigura. Il nero non dona. Prima di girare si fa il bianco. Lo sanno anche i bambini. I'm a stranger in my hometown. I'm a stranger in my hometown. I'll take my brand new wings and I will fly away, leaving tomorrow. Can't stand this pain, leaving tomorrow. It's always snow and rain. I need freedom. Why don't you come with me? I need freedom. Why don't you come with me? You're never gonna find no one else like me. that's no reason why. I never come back, that's no reason why. And you are history, baby, just left behind. È la seconda parte di Eclettica, in compagnia di Giulio Caperdoni, tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, trasmissione che è anche disponibile in podcasting. Se volete i dettagli li trovate su myspace.com/eclettica o su www.radiorockfm.com. Questa seconda parte si è aperta con I Viaggi Perduti, suoni, immagini e parole, bel progetto dei dischi del Manifesto, bel progetto che già ci eravamo ascoltati l'altra volta con la voce di Fabrizio Gifuni e poi a seguire la musica di Ginevra Di Marco a parlare di Bosnia. Quest'oggi invece abbiamo parlato di New Orleans, prima assieme alla voce di Laura Corino e poi assieme a Roberto Ciotti. Questo è un progetto che va a visitare quei luoghi che sono diventati viaggi perduti, perduti in quanto sono stati distrutti. Per esempio New Orleans è stata devastata dall'uragano Katrina, sicuramente ve lo ricorderete, fra il 29 e il 31 agosto 2005. Ridiamo spazio alla musica, ridiamo spazio a The Early Years, band londinese che da qualche mese non trova, infatti, spazio all'interno delle playlist di Eclettica. Questa è So Far Gone. We'll be right back. Tommy Brown at your service, miss. Clayton. Clara Clayton. Clara. What a beautiful name. Eclettica ha una sua piccola e confortevole rotazione, nel senso che abbiamo una serie di brani che ruotano di settimana in settimana all'interno delle playlist di Eclettica, che ritornano di settimana in settimana. Per esempio, nelle ultime settimane questo sta avvenendo a Tiago Lies Losing the Plot, che ci siamo appena ascoltati con l'interludio di Jellison. Proseguiamo invece con un disco che di questa rotazione perlomeno al momento non fa parte, è uscito qualche settimana fa ed è al suo primo passaggio in Eclettica. Sto parlando del EP, il nuovo EP dei Grizzly Bear intitolato Friends, dal quale vado a estrarre un brano interpretato dai brasiliani CSS, Can't Say Desser Sexy. È la versione brasiliana, per così dire, di Knife, brano originariamente appunto dei Grizzly Bear. Quando faccio una lettura di questo tipo, di solito è perché qualcuno è preoccupato che nella propria vita debba morire qualcuno o stia per scoppiare qualche disastro. Ma nella tua mano non c'è nessun segno in tal senso, anzi, direi piuttosto il contrario. Non so bene come spiegarlo, ma è come se la tua esistenza in questo momento stesse attraversando una fase di assoluta tranquillità. Ho visto linee simili in alcuni malati terminali che avevano superato la paura della morte. Non fraintendermi, non c'è nessun segnale di morte qui, ma è come se tu avessi risolto un grosso dilemma, come accettare il fatto che si muore così tante volte o qualcosa di simile. Quando eri più giovane, eri tormentata da un mucchio di contraddizioni, come molti. Tenevi gli altri a distanza, poi ti sei data ad un uomo che ti ha fatto a pezzettini. È stato un disastro, vero? Era come giocare a tira e molla, uno tirava da una parte e l'altro dall'altra. Beh, tutto questo fa parte del passato, adesso non sei più così. Hai conquistato una grande solidità perché sai di essere amata e di essere importante per molte persone. E queste sono le due cose che tutti desideriamo di più. Vogliamo essere amati e vogliamo sapere che ci sono delle persone che hanno bisogno di noi, proprio noi e nessun altro. Se mi avessi chiesto di parlarti della tua esistenza, ti avrei detto che sei una donna molto fortunata. Lo sei davvero. C'è tantissimo amore dentro di te e intorno a te. Era un sacco di tempo che non vedevo tanto amore nel palmo di qualcuno. Si irradia in tutte le direzioni. È la tua base, l'ingrediente principale della tua vita. Non vedo proprio nessun problema, Cullen. Non ce n'è, te lo posso garantire, e di solito non mi sbilancio mai, a meno di non esserne assolutamente sicura. Questo era Ossi di Luna, di Jonathan Carroll. see the way she was looking at you? She did have quite a scare, right? After all, Miss Clayton almost ended up at the bottom of Clayton Ravine. Clayton Ravine? Holy shit, hey, Doc! Clayton Ravine was named after a teacher. They say she fell in there 100 years ago. 100 years ago? That's this year. Every kid in school knows that story because we all have teachers we like to see fall into the ravine. Great Scott! Then she was supposed to go over in that wagon. And now I may have seriously altered history. Green hills and enemies. These things, they make us sentimental inside. Your words are gel ignite. Or just another sentimental aside. We're catching bullets in our teeth, and though it's easy if you know how it's done, they split the secret up 6 ways before they gave it to us just before dawn. And now we don't remember. Blood and guts are out. We spread our bones across the table at night. We cut our fingers off to give ourselves those little extra insides. We're catching bullets in our teeth, and though they try hard not to say how it's done, they always do. They spill the secret our 6 ways and beg for our forgiveness just before dawn. And now we don't remember. We're catching bullets in our teeth. It's hard to do, but they taste sweet. And if they take a couple out, we try to work things out. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 7, volume numero 4. Indice, Kiddy Carr, Paolo Benvenu, Yes Sayer, Electric President, 17 Evergreen, Laura Curino, Roberto Ciotti, The Early Years, Tiago La, Is Losing the Plot, Grizzly Bear, Uncle,